Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ritrovati da Maria Luisa Pezzali, nuovo appuntamento con l'antologia estiva di Essere e Avere. Vi riproponiamo alcuni dei temi e delle storie che vi abbiamo raccontato nei mesi scorsi. A noi piace chiamarlo il meglio di. Che cosa racconta di noi ogni giorno tutto quello che clicchiamo, postiamo, condividiamo, twittiamo sui social media? Milioni di opinioni, giudizi, preferenze, gusti che dal punto di vista dei consumi, certo non solo, ma di questo oggi parliamo, rappresentano un tesoro enorme, se ben raccolto, classificato, analizzato. Trasformare la complessità di queste informazioni digitali, i cosiddetti big data, in informazioni fruibili, in un racconto del presente, una previsione sul futuro, un indice di misurazione per i temi e i fenomeni più disparati, dalla felicità all'innovazione fino alle intenzioni di voto, rappresenta oggi una grande sfida. Partiamo da qui. Dopo gli attacchi, il governo si attribuì il potere di leggere ogni email, ascoltare ogni cellulare. Ma gli serviva qualcosa per vagliare il tutto. Qualcosa per trovare i terroristi in mezzo al resto della gente prima che potessero agire. I cittadini volevano essere protetti, ma non volevano sapere in che modo venivano protetti. Così quando si trovò un sistema che funzionava, lo si tenne segreto. E tu come fai a conoscerlo? Io l'ho ideato. Ma c'era un problema con questa macchina. L'avevo costruita per prevenire un altro 11 settembre, ma lei prendeva in esame ogni sorta di crimine. Così dovete insegnare alla macchina a dividere le informazioni in due liste, rilevanti e irrilevanti. Ma la macchina è dappertutto. Ci osserva con i suoi 10.000 occhi, ci ascolta con i suoi milioni di orecchi. Ho detto di mandare un'email. Sono passate 3 settimane, potresti anche decidere. Quello sarebbe il modo più semplice. Cosa ti costa? Non così lontana dalla realtà questa previsione del crimine, come spesso accade del resto per le serie TV, questa era Person of Interest, persino per quelle più distopiche, che raccontano cioè un futuro inquietante, apocalittico. Sicurezza e privacy a parte, non è di questo oggi che vogliamo parlare. In che misura le nuove tendenze oggi passano dalla rete, dalle opinioni che milioni di persone affidano ogni giorno ai social media? La Sentiment Analysis si occupa proprio di questo, analizza il sentimento della rete per capire i fenomeni sociali, raccontare il presente e fare previsioni sul futuro, dall'andamento dei mercati alle elezioni, dalle rivolte popolari ai vincitori dei talent show, perché lo sappiamo, dalla rete ormai passa tutto. Tra i pionieri di questa scienza ci sono alcuni ricercatori dell'Università di Milano, hanno dato vita a una startup che monitora le opinioni espresse in rete in base ad un algoritmo riconosciuto a livello mondiale, usato tra gli altri dal quotidiano inglese The Guardian, premiato da Google e Istat nel contest intitolato Produrre statistica ufficiale con i big data. Ci siamo fatti spiegare tutto da Stefano Iacus, co-founder di Voices from the Blocks. Voices from the Blocks è uno spin-off dell'Università degli Studi di Milano. È nata da un'idea mia, di Luigi Curini e Andrea Ceron, anche loro docenti dell'Università di Milano, ed è nata nel 12/12/2012, con l'idea di, come progetto di ricerca, di diventare un osservatorio permanente su quello, diciamo, che si discute in rete, in particolare sui social media. Che cosa fai in pratica? Analizza quello che si dice in rete? Esatto, fa un'analisi sistematica di alcuni temi di discussione in rete utilizzando una tecnologia proprietaria di sentiment analysis, che vuol dire semplicemente raccogliere dei testi ed analizzarli attraverso un algoritmo che dal testo produce delle associazioni semantiche. Questa analisi sui cosiddetti big data va molto di moda, no? Parlare di questo in questo momento, questa sentiment analysis che fate voi, in che misura è qualitativa, in che misura è quantitativa, in quale proporzione? Cioè, intendo dire, è un'analisi completamente automatizzata che risponde quindi a quanto lavora l'algoritmo, oppure diversamente in altro modo? Allora, dipende da chi la fa. L'algoritmo che noi abbiamo sviluppato è proprio un mix dei due tipi di analisi, analisi qualitativa e analisi quantitativa. È qualitativa nel senso che una parte dei testi che noi utilizziamo per l'analisi viene letta da decodificatori umani che cercano di estrarre significato semantico proprio dalla lettura dei testi, evitando quindi ambiguità del tipo che bella fregatura, che un algoritmo automatico non saprebbe come classificare contenendo sia un aggettivo positivo che un aggettivo negativo. Quindi che bella fregatura è una frase tipicamente con accezione negativa. Dopodiché, fatta questa associazione linguistica che è puramente interpretativa e è dovuta all'uomo, l'algoritmo estende all'intero universo di testi presenti in rete, quindi questo è l'aspetto quantitativo, l'analisi di tutti i testi, appunto, producendo una statistica aggregata di quali sono le espressioni o il sentimento su alcuni temi di discussione. Per dare un'idea, quanti milioni di voci avete analizzato fino ad ora? Le avete in qualche modo quantificate? Ah sì, noi abbiamo dei database enormi di dati provenienti dai social, abbiamo diversi progetti, un progetto diciamo più ludico che è chiamato iHappy, che è un'applicazione che da cellulare ci dice ogni giorno come varia la felicità da città a città in Italia. Beh, in questo caso abbiamo analizzato circa 50 milioni di tweet ogni anno. Siamo partiti nel 2012, quindi abbiamo tantissimi milioni di tweet analizzati e presenti nei nostri database, ma in generale per ogni ricerca noi arriviamo ad analizzare qualche milione di testi in tutte le lingue. Quali sono i campi di applicazione possibile per focus di questo genere? Secondo noi i campi sono svariati. iHappy è un indicatore solamente social, quindi guarda solo a Twitter e guarda solamente a quello che passa attraverso Twitter. Quello che noi abbiamo fatto insieme ad esempio alla rivista Wired Magazine, abbiamo costruito un indicatore che si chiama Wired Next Index, che tiene assieme le statistiche ufficiali su disoccupazione, numero di imprese e così via, quindi i dati ufficiali cosiddetti freddi e lenti, con i dati social sulle proprie prospettive di crescita, sulla prospettiva di crescita del paese e in generale sulla classe politica. E questo indicatore ogni giorno viene appunto rappresentato anche questo tramite un'app e un sito internet e cerca di prevedere qual è l'umore, quindi di fare quello che si chiama forecasting, sulle aspettative degli italiani in merito alla capacità di ripresa del nostro paese. Quindi un'integrazione tra statistiche ufficiali e big data, appunto di tipo social. Ma abbiamo anche recentemente vinto come gruppo di ricerca un concorso sponsorizzato da Google Italia e l'Istituto Nazionale di Statistica proprio per l'integrazione tra dati ufficiali, statistiche ufficiali e dati social. E quello che abbiamo fatto è proporre un indicatore di benessere individuale, che faccia da contraltare agli indicatori tipici di benessere di un paese. Qui ci sono tutte le applicazioni ovviamente commerciali, per cui tutte le applicazioni nel marketing, nella comunicazione, gli studi per esempio elettorali, di forecasting su, diciamo, in corrispondenza di certi eventi elettorali. Il vantaggio dell'analisi social è che io posso avere un dato e produrre una statistica di tipo istantaneo. Manca quell'aspetto di rappresentatività che invece è garantita dai sondaggi tradizionali, però quello che noi abbiamo visto ad esempio con le componenti del Wired Next Index di tipo caldo, di tipo social, abbiamo visto che riescono a prevedere di 15 giorni l'andamento di indicatori ufficiali, appunto delle statistiche ufficiali, tipo la volontà dei consumatori appunto di consumare o la capacità delle imprese di investire, volontà di investire. Quali sono, se ci sono, i rischi di distorsione di un'analisi di questo tipo? Penso alla rappresentatività della popolazione italiana, perché ovviamente derivando solo dalle discussioni sui social include il fatto che si occupa solo delle persone presenti sui social. Per quanto riguarda il campo di applicazione, è chiaro che i dati social o comunque i dati che si trovano in rete non potranno mai essere rappresentativi, diciamo, della popolazione demografica di un paese, però sono quei dati che permettono di raccogliere quello che noi chiamiamo segnale forte. Segnale forte vuol dire che, ad esempio, se io voglio sapere chi vince le elezioni, anche se non voglio sapere esattamente il valore numerico della vittoria, questo dato sicuramente passa sui social, perché i social tendono ad amplificare quello che è il sentire generale della popolazione. Quindi è possibile che io non trovi il commento estremo, quindi una persona che è politicamente poco rappresentata in rete, però quello che posso fare è cogliere il segnale di chi vincerà le elezioni. E noi praticamente dal 2012 continuamente abbiamo fatto le nostre tra virgolette previsioni elettorali, mostrando proprio, quindi la notte prima delle elezioni, quale sarebbe stato il risultato, con errori statistici veramente bassi comparati ai sondaggi tradizionali. In altri campi non è possibile, quindi se io voglio conoscere l'opinione di una sottocategoria della popolazione che è poco rappresentata e poco visibile in rete, chiaramente quell'opinione non posso estrarla. E un'altra startup, Travel Appeal, invece, ha puntato sul turismo, creando, fra le altre cose, un indice di appetibilità delle mete turistiche e dei territori. Si tratta in pratica del primo servizio per l'elaborazione dei big data nel settore del turismo, un settore in cui quello che si dice in rete, le opinioni dei viaggiatori, l'immagine digitale, per così dire, di una destinazione è sempre più determinante per la scelta. Il fondatore di Travel Appeal, Mirko Lalli. Noi abbiamo realizzato un motore che va a raccogliere tutti i dati delle destinazioni, con destinazione intendo sia i territori sia le singole aziende che lavorano sui territori stessi, quindi gli hotel, i ristoranti, i beni culturali, i musei, i mezzi di trasporto. Le persone parlano di queste cose che ho appena elencato, le recensiscono sui vari canali di review, ad esempio TripAdvisor, Booking, Expedia e così via. E sono migliaia e migliaia di contenuti ogni giorno che vengono prodotti relativamente alle destinazioni. Ecco, raccogliamo tutto, cerchiamo di pesarli e di dare anche pesi differenti ai contenuti in base alla loro importanza. Una recensione certificata, tipo la recensione di Booking, certamente nel nostro algoritmo ha un peso maggiore di una recensione non certificata, tipo quella di TripAdvisor, per esempio, e così via. Sono migliaia e migliaia i punti di misurazione del nostro algoritmo, e in uscita diamo sia una serie di punteggi, e quindi diventa semplicissimo confrontare le varie aspetti di un territorio con un altro territorio, di un hotel con un altro hotel, di un ristorante con un altro ristorante, ma diamo anche una serie di indicazioni su le cose che funzionano, le cose che non funzionano, le cose delle quali le persone parlano di più e delle quali parlano di meno. E quindi sono indicazioni utili, ad esempio, per indirizzare investimenti di marketing, e informazioni utili anche per costruire un prodotto turistico migliore. Il vostro, per così dire, è un modello B2B, quindi che si rivolge in prevalenza, appunto l'hai citato, alle realtà del territorio, che possono essere le aziende di promozione turistica, ad esempio, oppure le imprese stesse, così? Sì, assolutamente sì. In questa fase abbiamo deciso di concentrarci su un modello B2B per vari motivi. Il primo motivo è che le aziende B2B sono quelle che poi costruiscono il prodotto, quindi noi abbiamo l'obiettivo di misurare e dire cosa fare per migliorarlo, e chi migliora il prodotto sono gli operatori turistici, sono gli albergatori, sono i ristoratori, sono le aziende di promozione turistica del territorio, che infatti sono esattamente i nostri clienti. Elaborate anche un Travel Appeal Index, cioè un indice di appetibilità, per così dire, di una meta turistica. Ecco. Sì. Per quale motivo? Per semplificare la lettura per chi deve usufruire vostri strumenti, o è possibile prevedere una ricaduta consumer in questo caso? Esatto, entrambe. Diciamo, il Travel Appeal Index Score è un po' il nostro clout. Clout è quello strumento che misura l'impatto di una persona nel mondo internet, e quindi chiunque può andare a vedere qual è il suo impatto. Noi ci siamo ispirati a questo e abbiamo costruito un indice da 0 a 100 dell'appeal di un territorio. Questo indice, questo punteggio, questo score è applicato a tutte le aziende del territorio, ovviamente ognuno ha il suo, e in aggregato all'intera destinazione. Non adesso, ma in futuro potrebbe essere interessante prevedere anche delle applicazioni B2C, quindi per il consumatore, per il turista, che potrà scegliere in maniera consapevole anche in base al nostro indice di appeal. Però vi faccio subito un esempio. Abbiamo appena fatto un accordo con una grossa banca, con Unicredit, che ha la volontà di usare il nostro indice di appeal tra i parametri aggiuntivi, quindi un parametro in più, senza sostituire niente, ma aggiungendone un altro, di rating bancario. E questa è una rivoluzione. Quindi la valutazione delle imprese del settore turistico, al quale si aggiunge un punteggio che è una sorta di riassunto della loro immagine digitale. Io non sono un talebano dei big data, nel senso non credo che sostituiranno completamente i vecchi metodi di valutazione, ad esempio delle aziende, o di valutazione o di indagine, ad esempio, tradizionale. Sono sicuramente uno strumento in più che permette di avere un altro punto di vista nelle mani degli analisti e nelle mani dei decisori per prendere decisioni migliori. dall'algoritmo per lo snack perfetto al kit per il pranzo con gli ingredienti già dosati, passando per il servizio di consegne porta a porta e quello di scrittura a mano. Restate con noi perché nella seconda parte parliamo di consumi che semplificano la vita. Riflessione finale dedicata invece alla social innovation. Essere e avere. Oh, che bella giornata per stare a letto. Avanti. Oh, buongiorno James. Ah, sì, la mia colazione. Due zollette. Ah, niente latte. Ed ora, amico mio, corri all'edicola e comprami il giornale. Focus sui trend. Sempre più personalizzati, cuciti su misura i prodotti e i servizi che puntano a conquistare un consumatore sempre più esigente. Tailor made, si dice appunto, sono i consumi che semplificano la vita, i protagonisti del focus sui trend di questa settimana, in compagnia dei ricercatori di Future Concept Lab, come sempre. Isabella Guaitoli, ben ritrovata. Ciao Maria Luisa, ben ritrovata, buongiorno a tutti. Di cosa parliamo, Isabella? Definiamo innanzitutto lo scenario, la cornice di questa tendenza. Sì, come hai anticipato anche tu, è una tendenza che si sta delineando per i consumi del nostro prossimo futuro, che si sviluppa intorno ai servizi più che ai prodotti veri e propri. Servizi che diventano via via sempre più efficaci nel semplificare la vita delle persone, soprattutto quando è il momento di acquistare qualcosa, ma anche sempre più mirati, cioè in grado di offrire un servizio, un prodotto personalizzato al massimo. Si prospetta cioè un futuro in cui gli acquisti ripetitivi, quelli noiosi, faticosi, saranno completamente automatizzati o quasi, grazie a questi servizi in grado di autogestire le operazioni e le procedure, come per esempio, non so, la spedizione di pacchi o anche il dover fare la spesa tutti i giorni, ma anche servizi che saranno in grado di automatizzare attività umane anche complesse, per esempio la scrittura manuale, e saranno in grado di prendere decisioni al posto nostro, risparmiandoci tempo e fatica mentale. Iniziamo a raccontare qualche caso, Isabella. Sì, dei casi interessanti li troviamo per esempio nel settore dell'alimentazione, dove si stanno inventando nuovi modelli distributivi che vanno verso la fornitura continuativa, no? In abbonamento, ma con in più il valore di una, chiamiamola, personalizzazione automatica. Un esempio interessante è Graze, una startup fondata qualche anno fa da 7 amici nel Regno Unito e operativa però anche negli USA dal 2013, quindi si è espansa molto. Che cosa fa Graze? Inventa, produce e vende snack vegetariani online per abbonamento, recapitandoli regolarmente ogni settimana o mensilmente ai suoi clienti. Bisogna andare sul sito graze.com, la prima volta ci si registra e si dà una valutazione ai vari tipi di snack proposti, con un voto di gradimento ad ognuno di essi in base alle nostre preferenze. E da lì in poi gli snack saranno automaticamente scelti e abbinati a formare una snack box, la chiamano così, con quattro tipi diversi di cibi, porzionati, confezionati singolarmente, no? Che poi viene consegnata a domicilio direttamente nella buca delle lettere. L'idea innovativa che sta dietro a Graze sta nell'algoritmo che essi utilizzano, che memorizza ed elabora la tipologia di snack, ordinate appunto in base alle preferenze, e definisce da solo come personalizzare ogni consegna successiva al singolo cliente, mettendole anche in relazione a tutte le scelte analoghe degli altri abbonati. Un altro esempio dell'alimentazione nasce in Germania 3 anni fa, si chiama HelloFresh, però anche esso adesso è attivo in altri paesi europei, ma anche in Australia e in quasi tutti gli Stati Uniti. Questo servizio vuole semplificare la vita a chi vuole mangiare qualcosa di buono a base di ingredienti freschi. In sostanza HelloFresh è una piattaforma web che aiuta le persone a pianificare e a cucinare i propri pasti. È HelloFresh propone ogni settimana delle ricette nuove, tra le quali se ne può scegliere una o più da provare acquistandole insieme a una meal box, una scatola del pasto, si chiama così, completa di tutti gli ingredienti che servono per farla a casa propria, già pesati nelle giuste quantità. Una settimana dopo l'ordine, appunto, HelloFresh procura gli ingredienti comprandoli da piccoli produttori e fornitori locali e poi facendo la spesa al posto del cliente e recapitandola nuovamente a casa. Anche le consegne, passando a un altro settore, puntano molto sulla personalizzazione. Basti pensare al fermento, alle notizie che riguardano le consegne con i droni, sempre molto dibattuta questa questione, ci sono stati grandi annunci che hanno fatto notizia, per così dire. Sì, assolutamente, ma al di là dei droni ci sono anche dei casi interessanti per la loro semplicità. Uno di questi è Ship, che semplifica in estremo la procedura di spedizione di qualunque cosa si voglia. È stato lanciato nel 2013 da una startup di San Francisco, questa volta, ed è un servizio di delivery che permette agli abitanti di San Francisco, ma anche di Miami e di alcune parti di New York, di usare un'app per scattare semplicemente una foto di quello che si desidera spedire e vedere poco dopo arrivare direttamente sul posto un corriere con tutto il necessario per confezionare il pacchetto più adatto alla cosa che si è fotografata e spedirlo in qualunque posto si desideri nel mondo, con la soluzione più conveniente appoggiandosi ai vari operatori appunto di consegne internazionali. Un altro esempio, questo veramente futuristico, è il servizio che però è ancora in fase di studio, che Volvo vorrebbe mettere a disposizione di tutti i possessori delle sue automobili. Un self-refueling mobile e totalmente autonomo di carburante, cioè l'idea è quella di permettere agli automobilisti Volvo di liberarsi completamente dalla necessità di fermarsi ai distributori per fare benzina, di avere sempre l'auto piena grazie a un servizio appunto che viene allertato direttamente dall'auto connessa naturalmente o da un'applicazione anche su smartphone del proprietario, avvisa un distributore mobile di portare il carburante esattamente dove si trova parcheggiata la vettura, la rifornisce potendo aprire il serbatoio grazie a uno speciale codice che andrà messo sul tappo. E poi il pagamento avverrebbe in automatico e il cliente riceverebbe semplicemente la notifica appunto della transazione. Beh, mi viene in mente il rifornimento in volo dei caccia militari. Sì, potrebbe... siamo quasi a quei livelli. Esatto. Allora, per chiudere, Isabella, all'inizio abbiamo utilizzato l'espressione tailor made non a caso, perché l'altro dei settori interessati a questo servizio di personalizzazione è la moda. Sì, assolutamente. Diciamo il massimo della personalizzazione proprio per quei servizi che riguardano prodotti più personali, prodotti di bellezza, abiti, accessori, appunto la moda. E nella moda ci sono già da tempo degli esempi in cui si coniuga il fatto su misura con il tecnologicamente avanzato, ma uno comunque è molto interessante da segnalare qua in questo nostro trend. Ed è il progetto che è sfociato poi in una collezione di abiti che si chiama This Fit Me, di una designer industriale olandese. Che cosa fa questo sistema? Permette alle persone di vedere realizzato un capo unico e personalizzato grazie alla scansione 3D del corpo della persona che lo indosserà e l'utilizzo nuovamente di algoritmi generativi. Cioè inizialmente il sistema crea un indumento virtuale basato appunto sulla scansione 3D del corpo del cliente che poi può aggiungere il suo tocco personale, no? Ancora in fase di progettazione, e si ottiene così un indumento su misura non solo per come sta sul corpo ma anche per il gusto del cliente. Le linee che questo algoritmo crea virtuali vengono poi proiettate sul tessuto per creare un capo e diventeranno le cuciture che lo sagomano secondo poi diversi gusti, diverse proposte e modelli, però con il massimo del su misura, diciamo. Ti lascio ancora 30 secondi, Isabella. Beh, è una chicca. Questa è un'applicazione, non c'entra con la moda, è una cosa ancora diversa, di un'azienda newyorkese Bond che ha creato un robot in grado di automatizzare l'arte calligrafica della scrittura manuale. È un po' come gli automi meccanici della fine del Settecento, no? Che scrivevano da soli. Ecco, questo robot permette alle persone attraverso un'app di avere i propri biglietti scritti a mano da questo robot e inviate a chi si vuole. Il consumautore. Al centro della grande rivoluzione che sta attraversando il mondo dei consumi, prodotti, servizi, ma anche comunicazione, c'è il consumautore, così come abbiamo appunto voluto intitolare quest'anno la nostra rubrica. Il consumautore che ha parametri tutti nuovi di scelta dei prodotti, perché ha nuove abitudini di vita, soprattutto ha nuove sensibilità, nuovi metodi, nuovi punti di riferimento per scegliere quello che vuole. Ci aiuta a decifrare tutto questo, come sempre, Francesco Morace. Ciao Francesco. Buongiorno a tutti. Oggi di cosa parliamo? Oggi parliamo di social innovation come la vera nuova, diciamo, dimensione in cui il consumatore si muove. Perché per anni noi abbiamo pensato che la dimensione sociale fosse un po' il terzo settore, cioè fosse qualcosa di importante ma di affiancato al mondo del business. Oggi invece abbiamo capito, e in quest'anno, insomma, in cui ci siamo tante volte confrontati anche con te, abbiamo capito che oggi la grande differenza è che le relazioni sociali sono la base stessa delle scelte di consumo. Ed è bello anche riconoscere come in tante nuove realtà, pensiamo a tutto il mondo startup, pensiamo ai fenomeni emergenti come la sharing economy o crowd economy, come la si voglia chiamare, questo elemento della ricaduta sociale, dell'innovazione sociale ci sia sempre. Come filo rosso ci sia sempre, e parta molto spesso dal basso, cioè parta dalla dimensione alla fine individuale e quotidiana di ciascuno di noi, che trova poi mano a mano nuove condivisioni e quindi cresce esattamente come un organismo biologico. La social innovation è davvero un modo nuovo di guardare al corpo sociale. Sono modelli che alle aziende servono solo, come dire, a comunicare il prodotto, quindi ad agganciare il pubblico, il consumatore di riferimento, o anche per le trasformazioni interne? Serve molto anche per le trasformazioni interne, ad esempio la dimensione del concept design, cioè di capire, partendo dai nuovi comportamenti sociali, quali sono aree nuove, categorie per esempio nuove di prodotto. Faccio un esempio di una brand appena nata ma molto interessante da questo punto di vista. Si chiama Vado Libero ed è già interessante la scelta del brand, ed è una nuova brand di Smart Cycling Solutions. Quindi capire che il mondo della bicicletta non è più una scelta ecologista ma è una scelta quotidiana di ormai mainstream della grande parte, ad esempio, dei milanesi, e capire che diventa anche interessante ragionare sulla propria casa, che spesso ospita la bicicletta, con delle nuove soluzioni d'arredo. Ecco, questa è l'idea di questa nuova brand. Ci hai fornito materiale anche per la nostra rubrica Bikeology, quindi chiudiamo il cerchio. Francesco, grazie per tutti i tuoi contributi, un saluto e a presto. Grazie Maria Luisa, grazie a voi e a tutti i radioascoltatori. E grazie anche in regia a Gianmarco Ferronato. A domenica prossima. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.